Marco, capitolo quinto. E giunsero all'altra riva, nel paese dei Geraseni. E come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora, e neppure con la catena poteva più alcuno tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, e le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e niuno aveva la forza di domarlo, e di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con le pietre. Or, quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse a lui e gli si prostrò dinanzi, e dato un grande grido, disse: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro nel nome di Dio di non tormentarmi». Poiché Gesù gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or quivi, pel monte, stavano a pascolare un gran branco di porci. E gli spiriti lo pregavano, dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Ed egli lo permise loro. E gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, e il branco si avventò giù a precipizio nel mare. Eran circa 2000 ed affogarono nel mare. E quelli che li pasturavano fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna, e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto, e vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini, e come egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. E Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te». E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliarono. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca sull'altra riva, una gran moltitudine si radunò intorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iario, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi, e lo prega instantemente, dicendo: «La mia figliolina è agli estremi, vieni a mettere sopra lei le mani affinché sia salva e viva». E Gesù andò con lui, e una gran moltitudine lo seguiva e l'affollava. Or una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva». E in quell'istante il suo flusso ristagnò, ed ella sentì nel corpo d'esser guarita da quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro e in quella calca disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» E i suoi discepoli gli dicevano: «Tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello». Mentre egli parlava ancora, ecco arrivare gente da casa del capo della sinagoga, che gli dice: «La tua figliuola è morta, perché incomodare più oltre il maestro?» Ma Gesù, inteso quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, solo abbi fede», e non permise ad alcuno di accompagnarlo, salvo che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono a casa del capo della sinagoga, ed egli vede del tumulto e gente che piange ed urla forte. Ed entrato dice loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, ma egli, messili tutti fuori, prende seco il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entra là dove era la fanciulla, e presala per la mano, le dice: «Talità cumi», che interpretato vuol dire: «Giovanetta, io te lo dico, levati!» E tosto la giovinetta s'alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi di grande stupore, ed egli comandò loro molto strettamente che non lo risapesse alcuno, e disse che le fosse dato da mangiare.